Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Un sacco di aziende italiane pensano di non aver necessità di essere esposti invece al confronto con culture diverse e con modi di fare diversi. E questo secondo me si rispecchia poi in quello che fa l'Italia e nei risultati che l'Italia sta avendo adesso. Noi non siamo leader se non in pochissimi settori industriali. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova immigrazione. In apertura l'avete ascoltata la voce di Francesco, raccolta da Claudia Vanni nel corso del meeting di oltre 400 studenti ed ex studenti di 21 tra le più importanti scuole internazionali svoltosi recentemente in Liguria. Una voce critica e di stimolo sull'assoluta necessità di internazionalizzare la nostra produzione e presenza industriale. Lo ha dichiarato anche il governatore di Banca Italia Visco. Alle imprese italiane spetta investire in attività di ricerca, sviluppo e innovazione assumendosene i rischi impliciti, puntando sull'internazionalizzazione e superando i ritardi dovuti alla ridotta dimensione e proprietà familiare. Oggi puntata speciale con uno dei nostri giovani talenti di maggior successo negli Stati Uniti. Restate con noi. La frase della settimana è copyright dell'ex ministro agli affari regionali di Maria Carmela Lanzetta. Il guaio più terribile per la Calabria è la perdita dei propri giovani. L'esodo che si sta verificando è forse peggiore di quello dell'anteguerra o dell'emigrazione degli anni 50 e 60. Il nostro obiettivo è far rimanere i ragazzi nella nostra terra perché senza di loro non c'è futuro, afferma la Lanzetta. Pillola di riflessione, tornando ancora alle parole di Visco, perché il problema su cui ancora una volta vogliamo soffermarci è quello del cattivo utilizzo del già esiguo capitale umano che le nostre università e istituti superiori sfornano ogni anno. Prendiamo il caso della Campania. Nella provincia di Napoli sono previste quasi 8.000 assunzioni nel primo trimestre dell'anno, tralasciando il fatto che solo un terzo di queste prevede una successiva stabilizzazione. Pensate che solo nel 7% dei casi è richiesta una laurea, spesso non è proprio richiesto alcun titolo di studio. Il problema allora diventa: siamo un paese realmente in grado di crescere, innovare e internazionalizzarci? Per noi è giunto il momento di passare alla musica, quella d'autore. Torna anche oggi il tema della riconnessione tra talenti espatriati e giovani colleghi rimasti in Italia. Io sono contento nel mio piccolo di fare qualcosa nel mio paese, cioè quello di tornare, di lavorare con musicisti italiani, fare concerti, fare CD e tour in Italia, e questo secondo me è un piccolo aiuto. Gabriele Ciampi, 38 anni, è uno dei più promettenti compositori italiani di stanza negli Stati Uniti. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio a notiziari. In apertura la notizia che molti di voi attendevano: con l'approvazione del decreto mille proroghe è arrivata l'estensione fino al 31 dicembre 2017 dei benefici fiscali della legge contro esodo per il rientro dei talenti in Italia, che quindi avranno altri 2 anni di tempo per tornare a lavorare nella penisola o avviare un'attività imprenditoriale qui, pagando tasse su solamente il 20 o 30% del reddito. Passa anche a 6 anni la durata massima degli assegni di ricerca. L'Istat conferma: l'Italia è un paese sempre meno attrattivo per i flussi migratori internazionali. Nel 2014 il saldo migratorio generale è stato di appena 113.000 unità, un decimo rispetto all'anno precedente. I rientri in patria dei connazionali sono stati stimati in 26.000, in calo del 7%, 91.000 invece i connazionali emigrati, in crescita del 10%. Se prendiamo in considerazione il saldo migratorio tra espatri e rimpatri dei soli cittadini italiani, osserviamo un flusso negativo pari a meno 65.000 unità, in crescita del 20%. E parlando di paesi col maggior appeal per i talenti internazionali, Svizzera, Singapore e Lussemburgo sono sul podio, Italia invece fuori dalla top 20. E quanto emerge dall'edizione 2014 del Global Challenge Talent Index, report realizzato da INSEAD? La report analizza la capacità di 93 paesi di creare, attrarre e conservare i migliori neolaureati e professionisti. L'Italia è solo 36esima. Le difficoltà si concentrano soprattutto nel grado di attrattività verso i professionisti esteri e nella capacità di trattenere qui i nostri laureati. Stefano Moda, Candidate Manager Director di Adecco Italia. Manca la capacità di apertura nei confronti naturalmente delle dinamiche che si vengono a creare internamente ed esternamente. Manca una capacità evidente di poter alternare quella che può essere, parlando naturalmente ancora una volta di scuola, l'alternanza scuola-lavoro. La Svizzera ad oggi, nel caso specifico, è arrivata ad un 70% dei propri studenti che hanno esperienza in azienda ancora durante il percorso scolastico. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire naturalmente la capacità da parte anche delle istituzioni di poter portare il valore aggiunto dell'alternanza scuola-lavoro, quindi spingere naturalmente gli studenti, i talenti del proprio paese a venire a contatto con le aziende, naturalmente del proprio paese, ancora nel momento in cui stanno studiando. Questo rende naturalmente molto semplice poi la continuità e molto più semplice la possibilità da parte dello studente di andare a sviluppare il proprio talento all'interno dell'azienda del paese di riferimento. Se questo viene meno, e naturalmente se questo si lega anche ad un tasso di disoccupazione forte come quello che abbiamo in Italia, è chiaro che soprattutto il talento, ancora prima di iniziare a cercare lavoro all'interno del proprio paese, quindi dell'Italia, valuta fin da subito l'opportunità di cercarlo all'estero, anche perché all'estero sono tante le opportunità che vengono naturalmente offerte, soprattutto ai talenti italiani. Danimarca, terra d'attrazione dei giovani talenti italiani. Secondo un articolo del Sole 24 Ore, i connazionali trapiantati nel paese scandinavo sono oltre 6.600, più 40% in soli 7 anni. L'ambasciatore Stefano Quirolo Palmas ne stima però almeno il doppio, la maggior parte sarebbe under 30. Intanto la Gran Bretagna registra un'immigrazione da record. Secondo l'ufficio di statistica, gli arrivi di stranieri su base annua sono aumentati negli ultimi 24 anni del 1200%. Nel 2013 sono stati 209.000 a far la parte del leone ai paesi europei. Dibattito aperto anche in Germania, dove 2 anni fa sono immigrate oltre 1.200.000 persone, cifre che non si vedevano da 20 anni. La maggior parte proviene anche in questo caso dall'Europa, in particolare Polonia e Romania, oltre 20.000 gli immigrati altamente qualificati. E il Canada ha attivato da quest'anno il sistema Express Entry. Si tratta di una nuova modalità di gestione online delle domande di immigrazione. L'idea è quella di migliorare l'incontro tra domanda e offerta, velocizzando le pratiche per l'assunzione e il trasferimento, appena 6 mesi a partire dall'inserimento del proprio profilo nel database. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta fin sulla West Coast americana. Lo facciamo per parlare della vicenda di uno dei nostri talenti musicali più noti e promettenti negli Stati Uniti. Nome: Gabriele. Cognome: Ciampi. Età: 38 anni. Città di origine: Roma. Studi: composizione, Conservatorio di Roma, UCLA a Los Angeles, e lettere moderne all'Università della Sapienza di Roma. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2012. Per andare dove? Los Angeles. Perché? Per cambiare la mia vita e continuare una grande passione che avevo abbandonato, la musica. Quale lavoro svolgi attualmente? Compositore, compongo e dirigo la mia musica. Dove? Tra America e Europa. Tornerai? Vedremo, per ora vivo in California. Gabriele, una delle tue numerose composizioni per iniziare questa puntata. Non mi reputo un cervello in fuga, sono partito perché in quel momento storico gli Stati Uniti offrivano maggiori opportunità. In 3 anni ho fatto tanto e questa esperienza all'estero mi ha permesso di sognare. Sono felice di avere l'opportunità di tornare spesso in Italia per concerti, ma vorrei vedere altri giovani sognare nel mio paese. Questo purtroppo ancora non avviene. Così scrivevi, Gabriele, in una recente lettera. La mia domanda è conseguente: quale marcia in più riescono a dare concretamente gli Stati Uniti che l'Italia fatica ancora a dare ai suoi giovani? Ti permettono di sognare, poi come sappiamo il sogno è alla base di un progetto e per poterlo realizzare qualcosa di concreto lo devi sognare, quindi l'unica vera differenza è che è più facile sognare in America che in Italia. La tua è una storia realmente incredibile che dimostra quanto le velocità possano variare e quanto le traiettorie di carriera possano prendere direzioni sorprendenti grazie anche a scelte coraggiose. Iniziamo dai tuoi studi, composizione tradizionale al Conservatorio di Roma, perché? Ma alla fine credo che la base di ogni cosa è la formazione classica, la formazione accademica. Una volta che hai quello, hai posto una base su cui costruire qualcosa di importante, quindi lo studio alla base di tutto per poi sperimentare e cercare di creare un proprio linguaggio. Questo vale non solo nella musica ma in tutte quante le arti. E poi da lì sono passato alla UCLA per capire anche la mentalità americana. Tra poco ci arriviamo, Gabriele, però sì. Ti chiedo prima, che voto dai a posteriori alla qualità dell'inserimento musicale ricevuta in Italia? Ottimo, do un 8 perché alla fine non soltanto l'Italia ma l'Europa hanno sicuramente una grandissima scuola. L'aspetto più sorprendente leggendo la tua storia è dato proprio dalla svolta che prende a un certo punto la tua vita. A studi conclusi metti da parte la musica ed entri nell'azienda di famiglia, la Ciampi, nome noto nella produzione e vendita di pianoforti, e ci resti 10 anni. Perché hai accantonato la tua indole artistica così all'improvviso? Diciamo che il conservatorio un po' ti comprime, nel senso è molto accademico, molto teorico e poco pratico. Poi dall'altra parte avevo comunque un'azienda di famiglia solida dal 1945 e allora è quasi d'obbligo, no? E oggi vedo questa esperienza in maniera molto molto positiva, perché mi ha dato un primo vero approccio al lavoro, quindi è stato molto importante quella parentesi e oggi raccolgo i frutti anche in un nuovo settore come appunto la musica e la composizione. Qui in Italia era tutto impossibile, per il tipo di musica che volevo scrivere non c'era spazio, avevo rinunciato, così recita un virgolettato in un articolo che racconta la tua storia. Allora ti chiedo, è stato proprio così, Gabriele, il talento viene ucciso in Italia, è un problema di sistema? No, io credo venga un pochino soffocato, però devo anche dire che se il talento c'è poi alla fine lo puoi soffocare, ma riemerge sempre. Gli Stati Uniti ti danno un pochino più di spazio nell'esprimerti nelle arti, in America specialmente la figura del compositore è comunque valorizzata. In Italia è più difficile, poi ci sono più soddisfazioni ovviamente a svolgere questa attività in Italia, però ripeto, è soltanto un discorso di semplicità. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Gabriele Ciampi, 38enne compositore negli Stati Uniti. Un talento vero, quello di Gabriele, emigrato dopo ben 10 anni trascorsi nell'azienda di famiglia a Roma, sulla scia dell'ispirazione americana. In California è stato per lui tutto più semplice, non solo a livello di valorizzazione del proprio talento, ma anche nel farsi largo nel settore musicale. Gabriele, da poco nominato tra i primi 10 under 40 italiani negli Stati Uniti, ha nel frattempo riallacciato i ponti con la madre patria attraverso la sua 100 orchestra. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. L'anno della svolta da sottolineare in oro sul tuo personale calendario è il 2012. È l'anno in cui succede una cosa strana. Una tua amica americana, oggi tua moglie, ti dà un consiglio. Quale? Sostanzialmente sì, Christine mi ascolta alcuni brani e mi suggerisce di provare a Los Angeles a intraprendere questa attività nuovamente. E io la seguo e in 20 giorni cambio totalmente la mia vita, lascio l'attività di famiglia per entrare alla UCLA in California e poi da lì iniziare un nuovo percorso che mi porterà poi alla composizione e alla direzione d'orchestra. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. In California alla UCLA presenti la tua application, senza neppur voler sapere che studi avessi fatto mi convocarono, io ero sbalordito, in Italia ci sarebbero voluti anni prima di prendere in mano una bacchetta, lì ci ho impiegato una settimana, dici, e da quel momento in 3 anni tutto è andato a velocità supersonica. Il segreto degli Stati Uniti è questo, Gabriele, non so chi tu sia e da dove venga, ma se sai fare sei il benvenuto. Sì, è il paese del fare, è chiaro che c'è da aprire solo una brevissima parentesi, tutto questo è molto bello, però devo dire che senza le basi solide di uno studio accademico non sarei andato lontano, quindi ci vogliono entrambe le cose, teoria e pratica. E questo è importante, spesso accade anche in altre professioni, la base italiana è molto solida, poi però per fare spesso bisogna andare via. Perché secondo te questo semplicissimo concetto è andato però un po' perso in Italia, quello del fare, della semplicità anche se vogliamo? Diciamo un paese molto teorico, un pochino su tutto, no? Lo vediamo dalla burocrazia in alcuni campi appunto alle arti che sono puramente teoriche, però se ecco, uno ha la fortuna di fare qualche esperienza fuori per poi anche tornare in Italia e quindi portare qualcosa di nuovo al nostro paese, secondo me è questa la strada giusta. Non si può studiare soltanto all'estero e lavorare solo all'estero perché, ripeto, è tutto troppo pratico e non ci sono le basi. Allo stesso modo non si può fare tutto in Italia perché è tutto teorico, quindi bisogna trovare un punto d'incontro e poi magari in futuro decidere di tornare nel proprio paese. Com'è andata la tua prima audizione negli Stati Uniti? Beh, diciamo audizione basata su quello che poi sai fare, appunto, quindi io avevo la passione per la composizione, mi hanno fatto scrivere qualcosa, ho presentato dei progetti, mi hanno preso e sono stato inserito nella classe di composizione alla UCLA e questa è stata, all'atto pratico, la vera selezione. Lasciai l'Italia dopo poche settimane, tra lo shock e lo stupore della mia famiglia, ricordi, ma il sogno americano è tutto tranne che semplice. Quanto è stato complicato, competitivo, ricco di sfide il percorso alla UCLA? Sì, non è tutto oro, alla fine si pensa negli Stati Uniti è tutto più veloce, è tutto più facile, in realtà no, c'è una competizione che è veramente dura, ogni giorno hai tante persone dietro di te che vogliono arrivare, questo però ti dà lo stimolo, quell'impulso in più a fare bene, a fare più degli altri, che poi ti serve per l'ambito lavorativo. Gli anni successivi sono un susseguirsi di successi, ti esibisce ai Los Angeles Music Awards, il jazzista David Osborne ti chiede in prestito una composizione per suonarla al cospetto della famiglia Obama, suoni in Russia con la Moscow Chamber Orchestra fino al 2013, quando il governo statunitense ti fa un regalo speciale. Quale e a cosa ti dà diritto? Viene regalata la green card per Extraordinary Ability, che è sicuramente un riconoscimento prestigioso perché alla fine è la carta verde tanto ambita che viene concessa al governo americano proprio per la musica, quindi è po' la realizzazione del sogno. E nel 2013 fondi la Centorchestra, che rappresenterà, come vedremo, anche un ponte di riconnessione con l'Italia. Cos'è la Centorchestra? È una mia orchestra, perché appunto sono un compositore, scrivo e dirigo la mia musica, e lo faccio sempre con i miei musicisti, un po' come facevano i compositori di tanti anni fa, e sono contento di averla creata in Italia. Sono 30 validissimi musicisti giovani con i quali collaboro per produzioni discografiche, concerti e quant'altro. Ed è bella questa cosa, che è coinvolto giovani colleghi italiani. Sì, tutta quanta italiana. La scorsa estate pubblichi il tuo primo CD, The Minimalist Evolution, che a fine 2014 hai portato e suonato a Roma, ma a sorpresa il riconoscimento che ti rende più orgoglioso arriva proprio dall'Italia. Dopo soli 2 anni negli Stati Uniti entri in una classifica prestigiosa. Quale? Sì, i primi 10 award, quindi vengono premiati tramite la Primi 10 Society e la Camera di Commercio di New York ogni anno 10 italiani, eccellenze italiane che si sono distinte nei propri ambiti. E sono stato premiato lo scorso 24 novembre a New York, ed è sicuramente questo il premio, il riconoscimento più prestigioso e più importante per me, proprio perché viene dal mio paese. Allora, Gabriele, lo stato della musica, della cultura e delle orchestre nella penisola è un po' sotto gli occhi di tutti. Ti chiedo come ripartire per rimettere in pista un paese culturalmente così ricco, e quale apporto intendi dare tu personalmente e professionalmente? Ma io sono contento nel mio piccolo di fare qualcosa nel mio paese, cioè quello di tornare, di lavorare con musicisti italiani, fare concerti, fare CD e tour in Italia, e questo secondo me è un piccolo aiuto. Per chi rimane qui in Italia, secondo me si può rimanere, ci si deve provare, magari non si riesce la prima volta, ma è importante insistere. Bisogna ripartire da giovani, quindi da tanti giovani musicisti motivati che hanno voglia di fare, perché ce ne sono, e cercare di farli sognare. Questa secondo me è la base di ogni cosa. E a livello più generale, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? In realtà io, vivendo proprio all'estero già ormai da 4 anni, vedo il nostro paese, lo vedo bene. Non è un paese che ogni volta che torno, ecco, comunque si sta bene. Non è un paese, ci si lamenta forse un po' troppo, ecco, quindi dovremmo cercare di lamentarci di meno e andare avanti e cercare di cambiare un po' le cose. Ci raggiunge ora in linea Valentina Celletti, musicista e violinista rimasta in Italia ma con un forte collegamento con l'attività musicale di Gabriele. Buon pomeriggio, Valentina. Buon pomeriggio. Scusa, ma non abbiamo proprio scelta. La prima domanda per te è d'obbligo: perché sei rimasta in Italia? Ma mi sono laureata a 25 anni, mi sono diplomata a 23, quindi insomma avevo, tra l'altro, con ottimi voti, quindi mi sono messa in gioco, ovviamente. Tra l'altro, appunto, sono 2 titoli che ho preso in Italia, un paese culturalmente molto importante. Ho iniziato a studiare ovviamente per le audizioni, prepararmi bene per riuscire ad avere un posto stabile, e quindi niente, mi sono messa in gioco in tutto e per tutto. E poi lì ovviamente ho trovato diverse difficoltà, questo è ovvio, perché è un mondo molto difficile, soprattutto quello delle audizioni. Finito il conservatorio ho iniziato a preparare le audizioni, lì il caos, ricordi, spaventoso. Infatti lo scollamento tra formazione e mondo del lavoro, questo è un tema purtroppo ricorrente, dove alla fine tutto si risolve col passaparola e le conoscenze. Quanto è opaco e impenetrabile il mondo del lavoro musicale italiano? Sì, il problema dell'audizione è un problema molto lungo e difficile da affrontare. In realtà il problema fondamentale è che ci sono poche orchestre. Gabriele, ti richiamo in causa perché, da quanto ci racconta Valentina, a spiazzarla quando la chiamasti per collaborare con Centorchestra è stato il tuo approccio e l'impostazione molto informali, cui ha fatto seguito un'esperienza di lavoro dove conta non solo l'esecuzione ma il fattore umano. Ci spieghi meglio e quanto in questo ha inciso la tua formazione americana? In questo ha inciso il 100%. Impari comunque a collaborare con i tuoi musicisti, non c'è quel rapporto finto gerarchico che si avverte un po' negli ambienti accademici. Non solo in quello. Non solo in quello, ma diventano dei partner al 100% con i quali condividi, accetti suggerimenti. A volte anche con Valentina abbiamo dei confronti anche energici, ma tutto questo serve poi a ottimizzare il risultato finale. Valentina, quanto pensi che un ponte, una collaborazione, un'alleanza tra giovani musicisti espatriati e rimasti in Italia possa rappresentare una ripartenza, anche solo di speranza, per cambiare passo nel nostro settore musicale? Ma è importantissimo. Il confronto culturale è sicuramente sinonimo di crescita e quindi è assolutamente importante proprio creare questo ponte tra l'Italia e il resto del mondo. Qualche anno fa un ministro, se ricordo bene Giulio Tremonti, ironizzò: di cultura non si mangia. Tu a quel ministro vorresti ricordare quello che un grande politico e statista ebbe a dire molti anni prima, e quello statista si chiamava Winston Churchill. Cosa disse? Nel momento in cui appunto si dovevano tagliare i fondi per, cioè, appunto, la Seconda Guerra Mondiale, si dovevano tagliare i fondi alla cultura, disse allora: che cosa combattiamo a fare? Io sono assolutamente d'accordo, anche per perché bisogna investire assolutamente nel capitale umano. Grazie a Valentina Cellitti e in bocca al lupo. Domanda finale per Gabriele Ciampi: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Intanto quella di insistere, perché ci si arrende troppo facilmente qui in Italia, si va al tappeto, bisogna trovare la forza di rialzarsi, e poi se si è fortunati, si riesce a fare un'esperienza all'estero, di andare, di provare, per poi tornare in Italia e cercare di dare un contributo al nostro paese, che comunque è un gran paese. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo offerte tutte inerenti al mondo della comunicazione, anche scientifica. Un Senior Communication Officer allo European Environmental Bureau, sede di Bruxelles, scadenza per i CV dopodomani, curricula personnel@eeb.org. Un addetto stampa allo European Social Network, sede di Brighton, Gran Bretagna, scadenza per i CV dopodomani, curricula recruitment@esn-eu.org. E infine, un editore scientifico per l'Embo Journal della European Molecular Biology Organization di Heidelberg, Germania, scadenza per i CV 8 marzo, info su embla.org/jobs. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi un focus tutto al femminile. Vi parliamo di un blog che raggruppa 8 donne, espatriate ai 4 angoli del pianeta, all'interno del quale ciascuna di loro racconta la propria esperienza di emigrazione, fornendo dritte utili e consigli pratici. Ai nostri microfoni Mimma Zizzo, una delle amiche di Fuso che raggiungiamo in Kuwait. Amica di Fuso nasce perché in realtà noi siamo davvero amiche, ci siamo conosciute tutte quante più o meno in rete, e poi un anno fa una di noi, che è Tiziana, che sta in Florida, ha avuto l'idea di unirci tutte quante in un WhatsApp. In quel momento ci siamo resi conto che abbiamo tutte imparato qualcosa di più dal mondo, dalla realtà pratica che ognuno di noi viveva, e siccome siamo tutte espatriate è diventato anche, come dire, un servizio utile, no? Per capire eventualmente dove tentare nuove strade. E da lì poi ci siamo dette: guarda, se l'abbiamo capito noi, perché non farlo capire anche agli altri? E quindi ci siamo messe tutte insieme e abbiamo creato questo blog, che appunto sono 15 donne, 15 storie. Ecco, siete sparse un po' in tutto il mondo? Siamo sparsi, sì, tra America, Australia, Asia, Europa, insomma, più o meno abbiamo coperto, abbiamo tanti fusi diversi, anche la comunicazione a volte tra noi è divertente, perché abbiamo, cioè, siamo 24 ore coperte, c'è sempre qualcuno nella nostra chat comune che ti può rispondere, comunque darti un'indicazione. Perché avete lasciato l'Italia? I motivi immagino siano i più vari. C'è chi ha seguito il marito, chi invece per motivi di studio, chi invece da solo, perché appassionato della vita all'estero e una volta lì si è ricostruita la sua vita. Quindi le motivazioni sono tante, anche gli aspetti pratici, le difficoltà, le conquiste. Quindi diciamo che il nostro blog ha quello scopo, non abbiamo nessuna velleità di insegnare che cosa fare. Per chi è interessato a leggerlo, quali indicazioni può trovare anche nell'ottica magari di progettare un espatrio? Sinceramente non ci sostituiamo agli uffici preposti, entriamo nel merito di argomenti proprio burocratici. Semplicemente gli aspetti pratici, anche che cosa si fa per un trasloco, quali potrebbero essere le prime difficoltà o quali sono gli strumenti per venire fuori da queste difficoltà. A volte anche cosa vuol dire andare a fare la spesa, e a volte anche proprio cercare di sdrammatizzare. Per maggiori informazioni potete cliccare su amichedifuso.com. Un motivo per restare o tornare. Si estende anche al Piemonte la cosiddetta staffetta generazionale. Si tratta della possibilità per i lavoratori over 50, che entro 3 anni maturano i requisiti per la pensione, di trasformare il proprio contratto di lavoro in part-time, a patto che l'azienda provveda all'assunzione contestuale di un giovane a tempo indeterminato. I nuovi posti riguardano giovani tra i 18 e i 32 anni. Fino al 30 giugno le aziende interessate potranno presentare domanda all'Agenzia Piemonte Lavoro. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Onda Migratoria. Dibattetela in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internettivo. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda, la discussione di febbraio. Gli ultimi dati AIRE raccontavano il boom di espatrio di italiani verso la Gran Bretagna, mentre l'onda migratoria generale proseguiva sfiorando i 100.000 espatri l'anno. Pensate che questi numeri aumenteranno nel 2015? La fuga dall'Italia continuerà a crescere? E la Gran Bretagna si confermerà il maggior polo di attrazione o ci saranno nuove mete? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.